Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Benvenuti e bentornati a tutte e tutti. Oggi è venerdì 25 febbraio, siete sempre su Liberi Dentro Eduradio TV con me che sono Caterina Bombarda e Antonella Cortese. Ciao Antonella e buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Come sapete, la nostra giornata, i nostri buongiorno di Liberi Dentro iniziano sempre con la rassegna stampa ragionata delle notizie principali che riguardano il carcere e non solo. E quindi parto da questa notizia che ho letto sul Messaggero a firma di Michela Allegri. Nasce l'associazione 358 contro gli errori giudiziari. D'Alfonso, senatore del PD, dice troppe cicatrici. Ecco, sì, perché nasce questa associazione che per me è veramente una notizia questa. Perché è un'associazione per monitorare gli errori giudiziari, non solo, anche il ruolo del pubblico ministero e la fase delle indagini preliminari. L'obiettivo è chiaro, cioè trasformare il settore della giustizia in uno strumento che ispiri fiducia nei cittadini e non timore. E quindi verrà avviato un monitoraggio sui casi di assoluzione e di annullamento delle misure cautelari. Quindi Caterina, l'associazione nasce un po' da un'esigenza che è quella appunto di risolvere delle difficoltà concrete. Sì, anche perché i dati effettivamente ci dicono che ogni giorno in Italia almeno 3 persone vengono sottoposte a misura cautelare pur essendo innocenti e ogni anno sono tantissimi processi che si concludono con assoluzioni, quindi viene dimostrata l'innocenza delle persone. Ma come nasce questa iniziativa? Tutto è partito dall'impulso del senatore PD Luciano D'Alfonso e per questo l'associazione 358 nel suo nome che si è data richiama l'omonimo articolo del codice di procedura penale, quello che impone, ovvero ai pubblici ministeri, di effettuare accertamenti per cercare prove a favore della persona indagata. Quindi Caterina, non vorrei sembrare superficiale, ma mi pare che diciamo l'articolo già ci sia. Eppure questi dati ci dicono che le cose vanno diversamente. Eh sì, infatti, questa associazione nasce proprio da una domanda, ovvero se, come giustamente hai osservato, l'articolo già c'era, se c'è un articolo del codice di procedura penale, il 358, che dovrebbe essere il baluardo della difesa nella fase delle indagini, e anche un articolo della Costituzione, il 111, che espone le regole del giusto processo, perché entrambi sono ormai talmente vecchi, impolverati, da non entrare nel patrimonio collettivo di attesa e pretesa? Ecco, questa cosa l'ha ricordata proprio il senatore PD Luciano D'Alfonso. I processi che sfociano in assoluzioni, continua il senatore, producono cicatrici profonde che mettono a repentaglio la salute e la vita delle persone. E quindi è da qui la decisione di fondare l'associazione 358 per monitorare e prevenire errori giudiziari dovuti al mancato rispetto delle garanzie della persona indagata. Caterina, speriamo che a questo appello di Luciano D'Alfonso abbiano risposto in tanti. Guarda, finora sono a centinaia tra avvocati, studenti, professori universitari, appassionati di diritto, ma anche cittadini. E sì, ci sono anche già delle proposte in campo. Con per esempio i gruppi di studio e segnalazioni, l'Associazione 358 inizierà nei prossimi mesi un monitoraggio della situazione della giustizia a livello nazionale, realizzando anche dossier con votazioni da cui partire per chiedere sanzioni e azioni disciplinarie. Poi l'associazione effettuerà una misurazione anche dell'errore, dando votazioni che vanno dallo zero alla lode. L'obiettivo è quello di divulgare una cultura garantista dei diritti che rimetta al centro di ogni procedimento la necessità di tutelare la dignità dei cittadini. Ma l'obiettivo è anche un altro, ovvero il fatto che il cittadino non debba più avere paura della giustizia, siccome in tanti casi anche di persone sentite come testimoni comunicano di essere rimaste traumatizzate dai metodi impiegati per condurre audizioni anche di semplici persone che hanno assistito a dei fatti, e questa cosa non deve accadere. Senti, c'è un disegno di legge a riguardo? Sì, sul tema il senatore Luciano D'Alfonso del PD ha già presentato un disegno di legge. Il monitoraggio svolto si estenderà anche all'operato della polizia giudiziaria. E un'altra riforma che l'associazione intende promuovere è il fatto che si abbiano per gli avvocati come interlocutori i giudici per le indagini preliminari, il cosiddetto GIP, anziché il pubblico ministero. Questo soprattutto per non svelare le informazioni della controparte nella fase dell'indagine difensiva. Quindi è un'azione, ecco, anche politica e sociale importante, questa della fondazione di questa associazione, anche perché i numeri fanno riflettere. Secondo il report del portale errorigiudiziari.com, che vi invito ad andare a esplorare sul web, in media sono circa 1015 le persone che ogni anno vengono arrestate da innocenti. Quindi sono numeri che fanno davvero riflettere, e quindi è necessaria un'azione, come proprio in questo caso. Ma rimaniamo con la musica, sempre le nostre voci in libertà, questo premio di Amnesty International. Abbiamo Chadia Rodriguez e Federica Carta con Bella Così. Ci rivediamo tra pochissimo. Se giro con i tacchi e la gonna corta, se sono troppo magra, troppo rotonda, mi hanno chiamato secca e balena, gridato in faccia e sussurrato. Smalto e crema, io mi piaccio così, e se mi va di farlo faccio così, in fondo le parole sono parole, e un giorno spariranno senza rumore. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella. Sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei bella così, perché tu sei bella così. Piacere, mi chiamo Shadia, sono sempre stata una tipa strana, sono cresciuta sola in mezzo alla strada, senza fare la ladra nella puttana, ho fatto una corazza, un'armatura che mi protegge dalla gente, dalla paura, io non avevo il seno grosso nella statura, il corridoio della scuola era una tortura, mi hanno chiamato povere fischiando, in branco ma da soli poi piango, e mi devono soldi e rispetto, mi guardo gonfiando il petto allo specchio, con i capelli fuori posto, senza vestiti belli. E rieccovi dopo la musica, siete sempre su Liberi Dentro e Radio TV. Come di consueto abbiamo battezzato il venerdì come il giorno in cui parlare degli animali, e quindi Antonella, raccontaci. Eh sì, ti racconto di un articolo che ho letto sulla rivista della Natura a firma di Ermando Giudici, su un argomento veramente spiacevole, e cioè quello degli animali vittima degli uomini fondamentalmente, perché c'è tutto un mondo criminale di scommesse clandestine che purtroppo utilizza gli animali proprio a scopo di lucro. Non si scommette quindi solo sui risultati delle partite o sui grandi eventi sportivi. La criminalità sfrutta ogni centimetro di spazio per fare profitti illeciti, e in questo non possono mancare ovviamente le competizioni che hanno al centro gli animali, dai combattimenti fra cani e galli, alle corse clandestine su strada o ippodromi di fortuna, senza contare poi il fenomeno del doping, che può coinvolgere anche animali che si trovano a essere al centro di competizioni legali, come quelle che avvengono negli ippodromi o nei tanti pali, il palo di Siena per dirne uno, oppure sagre che costellano il nostro paese. E mi sorprende questa notizia che tu racconti, perché in generale io sapevo almeno che queste cose erano vietate, o no? No, hai ragione Caterina, i combattimenti fra animali sono stati vietati nel 2004 con una legge specifica, però non sono mai veramente scomparsi dal panorama delle attività illegali svolte in Italia a danno degli animali, e sono competizioni che comunque spesso si concludono con la morte di uno dei due concorrenti, ovviamente. E sembrano solo apparentemente attività estemporanee, ma sai che ci vuole un'organizzazione capillare per realizzare una cosa del genere, in grado di coprire tutte le necessità che servono per mettere a punto una gara o comunque una sorta di teatro, come dire, di rappresentazione, di performance. Bisogna garantire la segretezza del luogo, prima di tutto trovare il luogo anche, ma nel contempo ottenere la partecipazione di un pubblico selezionato, disposto poi a puntare grosse cifre sul vincitore. Quindi qualcosa di vietato, non legale, che tuttavia richiede davvero quasi un'azienda a tutti gli effetti per organizzare queste cose, no? Hai detto proprio la cosa giusta, perché nell'organizzazione ci sono tante parti, ognuno ha il proprio ruolo ovviamente, e non possono poi mancare per esempio i veterinari compiacenti, quelli che cureranno le ferite dei combattenti, oppure quelli che appunto iniettano le sostanze dopanti. E se per organizzare un combattimento fra galli occorre poco spazio, per esempio, ed è facile da reperire in alcune zone dismesse della città, diverso è il discorso degli scontri fra cani, che richiedono ring molto più ampi, zone lontane dal centro, proprio perché devono anche diciamo riparare dai latrati dei combattenti che sono molto forti. E per questo il monopolio dei combattimenti e delle competizioni clandestine è saldamente in mano alle organizzazioni criminali ben radicati sul territorio, perché possono reperire tutto questo, garantire anche la vigilanza con proprie vedette e la sicurezza in qualche modo dei partecipanti. A questo genere di attività erano destinati i 6 cani recentemente sequestrati in provincia di Salerno, dove nell'ambito di un intervento molto più ampio è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per l'addestramento dei cani combattenti, perché giustamente prima di una competizione ci vuole l'allenamento. E un'operazione che ha costituito l'avvio di un progetto che si chiama Io non combatto, nato dalla volontà di prevenire e reprimere i combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di partner quali i Carabinieri Forestali e l'Università di Napoli Federico II. I cani sequestrati, Caterina, erano 4 femmine e 2 maschi di razza pitbull, tra l'altro dei pitbull abbiamo parlato in qualche precedente puntata, e mostrano i segni dei maltrattamenti subiti, quindi cicatrici aperte, magrezza, fobia, aggressività ovviamente. E gli animali sono stati trasferiti in un rifugio di Roma in custodia giudiziaria assegnata alla Fondazione Cave Canem, che opera in partenariato con Human Society International, nel progetto Io non combatto, nato proprio per dare agli animali riparo, attenzione, un po' il supporto necessario per un recupero adeguato psicofisico. E quindi gli obiettivi di questo progetto Io non combatto quali sono? L'obiettivo è di fornire strumenti concreti contro questo fenomeno attraverso attività di ricerca, divulgazione scientifica, operazioni sul campo e sensibilizzazione ovviamente dell'opinione pubblica. Nel corso del 2022, quindi in quest'anno, sono previsti incontri formativi rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, magistrati, forze dell'ordine, in modo che possano riconoscere i segnali della presenza di combattimenti clandestini sul territorio e quindi anche di attivarsi per eliminarli. Però facciamo una piccola pausa musicale con The Cranberries, Animal Instinct. E poi ovviamente non andate via, perché c'è l'ultima intervista di Caterina a Chiara Giannelli della redazione Ne vale la pena. Ciao a tutti! Rieccovi, bentornati anche oggi. Siamo sempre con la nostra Chiara Giannelli della redazione online di Ne Vale la Pena. Ciao Chiara, grazie di essere qui con noi. Ciao. È stato un piacere anche perché abbiamo conosciuto tante cose su questa realtà di Ne Vale la Pena, che è, ripeto, questa redazione per dare voce ai detenuti del carcere della Dozza di Bologna, e i loro articoli vengono pubblicati sul sito di Bandiera Gialla, che vi invito ad andare a scorrere, a vedere, è ricchissimo, veramente un archivio meraviglioso, e anche sulla loro pagina Facebook Ne Vale la Pena. E tra l'altro, Chiara, una cosa che mi viene in mente è il fatto che dicevi qualche giorno fa che voi date molto valore alla diversità delle persone che poi partecipano alla redazione. E quindi chiaramente diversità per me si collega alla varietà di storie di vita con cui venite a contatto. Ce n'è qualcuna che vorresti raccontarci? Sì, più che forse una storia specifica, posso appunto raccontare il fatto che nel nostro gruppo c'è davvero di tutto, no? Persone che hanno una storia cosiddetta normale, no? E che poi magari un evento li ha portati a vivere in carcere. Altri che invece magari sono cresciuti, no? In una storia di reato, in una storia delinquenziale, in contesti anche svantaggiati anche dal punto di vista appunto delle opportunità di studio, di conoscenza. Ecco, vabbè, quello che mi colpisce di più magari in questo momento, persone molto giovani con reati molto pesanti e una pena lunga, qualcuno col fine pena. E rispetto a cui vedo reazioni anche diverse, si possono trovare scoramenti, un lasciarsi andare, ma anche invece tanta voglia di vivere, tanta voglia di reagire e tanta positività. Quindi questo è forse quello che in questo momento mi colpisce di più. Senz'altro con alcuni magari un po' più grandi, cioè un po' più della mia età, si è creato anche un certo, come dire, feeling, quasi un'amicizia, ecco, vorrei dire, no? Per cui anche dopo il loro fine pena, o magari il fatto che sono andati in misura alternativa, si è continuato a condividere e si sono scoperte delle affinità che magari non si immaginavano neanche, perché il contesto carcerario ovviamente è molto compresso, quindi non si riesce sempre ad esprimere quella che potrebbe essere così un'amicizia fuori, no? Per cui ecco, in alcuni casi proprio invece è successo questo. Anche alcune belle storie di riscatto, cioè persone che sono uscite e che adesso lavorano, un amico proprio che adesso fa l'educatore in comunità di ragazzi svantaggiati, quindi significa che ha davvero fatto un bel percorso, insomma, no? Sì, assolutamente. Infatti te l'ho chiesto apposta perché a volte noi pensiamo che ci sono delle cose scritte e magari chi va a leggere su questo sito di Bandiera Gialla può ora immaginarsi che dietro ogni articolo c'è una storia, e quindi tanto più sono importanti queste cose scritte. E poi, sì. Chiara, pensando a una progettazione futura per Ne Vale la Pena, ormai siete un'esperienza di lungo corso, quindi è qualcosa di riconosciuto sicuramente anche dall'amministrazione penitenziaria. Progetti futuri, cosa farete? Ma allora, progetti futuri in parte realizzati, abbiamo scoperto incredibilmente, siamo nati digitali, ma che abbiamo bisogno anche di andare in modalità cartacea, soprattutto per dare più risonanza alla nostra attività all'interno del carcere, cioè arrivare a più persone dentro il carcere. Quindi abbiamo già fatto un numero cartaceo, vogliamo proseguire, speriamo almeno due o tre all'anno vorremmo riuscire a comporli e a stamparli. Abbiamo un'idea, invece, questa è tutta da mettere in piedi, di dare continuità a quello che facciamo all'interno all'esterno, cioè mettere in piedi una redazione esterna, nel senso di coinvolgere tutti i nostri amici che fortunatamente sono usciti o sono in misura alternativa, e proseguire anche all'esterno. Ecco, poi l'hai detto anche tu, c'è un c'è un progetto di collaborazione con Eduradio. Io credo che sia davvero importante fare sinergia e raccogliere le forze, anche perché più riusciamo a dare risonanza, più loro sono contenti, perché sentono che c'è davvero così una forza e un'efficacia anche dell'azione che portiamo avanti. Tra l'altro una cosa simpatica che mi viene da dire adesso, ricordando anche Fabrizio, uno dei vostri redattori, è che noi, e Chiara, io e te non ci conoscevamo proprio prima d'ora, sì, e certo. Loro invece che vengono a contatto con noi, le realtà all'interno del carcere della Dozza sono tantissime, certo. Questo lo dico per tutti anche i cittadini che ci stanno ascoltando in questo momento, quindi è facile non incontrarsi anche perché si entra in giorni diversi, e sono stati loro a darci l'idea di dire: oh ragazzi, ma perché non fate qualcosa insieme? Quindi effettivamente è bello così. È vero, se posso confermo quello, sì, che sta dicendo Caterina, cioè proprio loro che dicono, non capiscono anche perché magari due realtà che operano in carcere non si parlano, quindi davvero, e devo dire che io, essendo sempre molto sensibile alle loro richieste, sbagliandole anche, però ho voluto assolutamente che ci conoscessimo e spero che si possa creare un'ottima sinergia, quindi fra i progetti futuri metterei anche la collaborazione con Eduradio. Così è un modo per dirglielo anche, e tra l'altro ti chiedo, certo, beh, siccome tu li ascolti tanto, saprai sicuramente qual è il loro sogno principale. Allora, forse è lo stesso che avremmo noi, no? Se fossimo in quelle condizioni. Allora il loro sogno è di ricominciare a vivere e di costruirsi un futuro, anche da parte magari di quelli che hanno già una certa età. Nessuno molla, nessuno dice vabbè, per me è finita, no? Quindi il sogno è intanto, certo, di riconquistare la libertà o di riconquistare quel po' di libertà che si può ricostruire magari avendo un ergastolo, quindi ok, però l'ordinamento dice che un po' di libertà te la puoi costruire anche se hai l'ergastolo. E beh, per molti il lavoro, certo che è un grande problema, no? Per cui per i più giovani soprattutto è davvero avere un senso, perché il lavoro poi è questo, è avere un senso, non sentirsi inutili. E quindi qualsiasi attività poi svolta dentro è come una preparazione e una ricerca di senso, proprio però per trovare il lavoro vero, cioè quello che poi ti dà anche l'autonomia. L'altro sogno è quello di poter coltivare gli affetti, e questo è fortissimo, di poter coltivare gli affetti, trovarli se non si hanno, e molti di loro non ne hanno, e poter coltivare quelli che hanno in maniera un po' più umana rispetto a quello che attualmente le nostre norme consentono. Su questo mi sento di dire che c'è tanto, tanto da fare e che si potrebbe davvero fare tanto. Cioè un'affettività, una coltivazione un coltivare le relazioni in maniera, ripeto, più umana rispetto alla telefonata di 10 minuti o al colloquio visivo che insomma ha veramente molti, molti limiti. Grazie per averlo ricordato, è un aspetto fondamentale. E adesso, prima dei saluti di fine puntata, guardate in scorrimento una slide che abbiamo messo con i nomi dei redattori di Ne vale la pena, e che ringraziamo davvero tantissimo da qui a distanza, ma con la speranza poi di rientrare presto al carcere della Dozza come volontari e come operatori. Grazie Chiara, a presto. Certo. Saluto tutti, un caro saluto. Ci salutiamo anche oggi che è venerdì, dopo l'intervista a Chiara Giannelli della redazione di Ne Vale la Pena. Vi ricordiamo di iscriverci, redazioneliberidentro@gmail.com, ma non lasciateci perché nella mezz'ora successiva continuano le nostre rubriche. Oggi che è venerdì abbiamo Islam, religione e civiltà con Hamdan Al-Zekri e Ignazio De Francesco sul tema gestire la preoccupazione e la tristezza per la famiglia lontana. A seguire la comunità educante con i carcerati, con l'incontro con Bartolomeo Barberis, dove parlare della differenza tra comunità terapeutiche e comunità educanti, e poi ovviamente continuano le nostre rubriche anche il sabato e la domenica. Al sabato abbiamo le parole della parola con il cappellano del carcere Marcello Mattè, buddismo con la replica dell'intervista a Ignazio De Francesco, segue Fare Università in Carcere a cura di Alessandra Giovagnoli e a seguire Teatro dell'Argine con la quarta puntata di In Assenza, storie di teatro in carcere ai tempi della pandemia. La domenica siete sempre con noi, a iniziare da Yoga Ratna, un percorso di libertà a cura di Franco Bonisoli e Laura Russo, e poi Chef al fornelletto, come sempre la domenica, con una ricetta, questa volta il branzino al cartoccio. Grazie a tutte e tutti, un grandissimo saluto da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Diana Bota, Enea Flacco e Paolo Aleotti. Ci rivediamo lunedì. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.